ci trovavamo su quei moli. Oli, Oli, and Oli Kiss. Io e te, persi come Softly Kill Me di Elvis. Killing me softly, bitch. Sweet free, shh me my heart, please. You are my holy things. You are my holy things. Stringimi al petto e poi piangi questi giorni, please. Ehi, dentro le liriche guardo i guai di queste voci che voi non sentirete mai. Un grido disperso nel vento, nel vento. Leone bianco perso, leone bianco perso, leone bianco perso.